Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che quotidianamente oramai vi accompagna da oltre un anno, tutti i giorni a quest'ora in replica alle 20:45. Vi ricordo la mail al quale segnalare i casi: unabusoalgiorno@radio24.it. Ma vi ricordo anche di non segnalare casi personali, personalissimi, perché quelli non possiamo trattarli e soprattutto non sono rappresentativi di una moltitudine, diciamo, di persone, quindi esemplificativi di casi che possono accadere non soltanto a chi scrive, ma anche a centinaia, migliaia di altri cittadini. Ed è proprio il caso che trattiamo oggi, un caso sì personale, ma che vede coinvolti intanto nella città di Padova almeno altre 100 persone e che in realtà è esemplificativo del rapporto che passa in tutta Italia tra un cittadino, in questo caso un imprenditore, e la pubblica amministrazione. È il caso appunto di un imprenditore che chiede al comune di Padova un contributo di 1000 euro per installare dei pannelli solari, fa domanda, rientra tra i primi 100 che possono ricevere questo contributo, ma poi passano mesi e non se ne sa nulla. Telefona al comune e lì succede qualcosa, secondo me, dispiacevole, vale a dire informazioni maldate, forse anche con un po' di sgarbo, e quindi il cittadino si sente ovviamente penalizzato e si sente un cittadino di serie B. Ho riassunto bene Nicola Cardi, al quale do il buongiorno? Sì, perfettamente, perfettamente. Ecco, Nicola Cardi è il nostro radioascoltatore e appunto l'imprenditore che ci ha segnalato la sua storia. Allora, in sintesi, può dirci, dopo aver presentato la domanda, che cosa è accaduto del suo rapporto con l'amministrazione padovana? Sì, io ho presentato la domanda il 20 marzo di quest'anno e l'amministrazione mi ha risposto con una raccomandata in cui confermava appunto la ricezione della mia domanda. A quel punto io ho cominciato i lavori con tutta la burocrazia che ne consegue, quindi l'apertura della DIA, l'attesa dei 30 giorni propedeutici, poi la chiusura della DIA. Il 14... La DIA, ricordiamo, è la dichiarazione di inizio attività. E il 14 di luglio ho consegnato al comune tutte le carte che il comune richiedeva per l'erogazione del contributo. Ecco, però a quel punto comincia una trafila con il comune, perché lei non vede arrivare questi soldi, in fin dei conti stiamo parlando di appena 1000 euro, e il suo rapporto telefonico con il comune di Padova diventa, come dire, un po' teso. Sì, diciamo che io dopo 4-5 settimane ho fatto la prima telefonata chiedendo come avrei ricevuto questi soldi. Mi fu risposto, come lei diceva, in maniera non proprio gentilissima, di avere pazienza. Io avevo pazienza ancora un paio di settimane, poi chiesi di parlare con la persona della ragioneria che gestiva questa pratica, ma mi fu detto che era in ferie, e quindi continuai ad avere pazienza fino a che qualche giorno fa, esattamente 3 giorni fa, ho ritelefonato al comune di Padova. E che cosa le hanno detto? A questo punto l'impiegato comunale mi ha detto che fondamentalmente non ci sono i soldi. Ecco, perché... allora io direi di fermarci qui, perché la lettera che lei ci ha scritto contiene anche una serie di cose abbastanza strane, perché il comune chiama in causa la regione e addirittura la regione come ente supervisore, dove se si ha qualche aggancio magari è possibile avere dei soldi. Insomma, una lettera che in questa parte diventa spiacevole, ma fin qui diciamo così che è l'accusa. È giusto e doveroso sentire anche la difesa, vale a dire il comune di Padova. Voi sapete che facciamo sempre in questo modo, chiamiamo sempre tutti gli interlocutori, a volte qualcuno decide di non rispondere. Do quindi con piacere il buongiorno a Patrizio Mazzetto, che è il capo settore ambiente del comune di Padova. Buongiorno Mazzetto. Buongiorno a lei. Allora, che cosa ha da, diciamo così, da replicare alle osservazioni del nostro radioascoltatore e vostro concittadino? Ma io diciamo che mi soffermerei solo sulla parola che avete detto, spiacevole, in quanto quello che è stato riferito è perfettamente regolare, solo che probabilmente il funzionario che ha risposto si è spiegato male. Nel senso che la procedura prevede quello che ha detto il signor Cardi, venga fatta la richiesta, solo che l'erogazione del fondo noi a priori non possiamo dare una data precisa di quando verrà erogato, perché ed ecco l'ambiguità nel discorso regione e quant'altro, si riferisce al fatto che il fondo viene erogato in base alla disponibilità di cassa della nostra ragioneria. Ecco, e io questo qui lo capisco e la ringrazio per la sua precisazione, però faccio presente due cose. Primo, e magari lei mi contraddirrà se sbaglio, primo, il manifesto con il quale è stata pubblicizzata la richiesta di 1.000 euro non precisava che l'erogazione sarebbe stata conseguente ad una disponibilità di cassa. Secondariamente, una lettera che io ho ricevuto, per quanto informale, francamente non capisco cosa vuol dire, da parte del Comune di Padova, dice che il responsabile è solo ed esclusivamente il Comune di Padova. Allora, cerchiamo di fare un po' chiarezza. Intendevo dire la data precisa di erogazione non è prevista, ma questa vale per tutti i creditori, non è solo per il fondo del signor Cardi, indubbiamente. Vale anche per le fatture dei nostri creditori. Ma non è giusto che lo sappiano i creditori al momento in cui fanno domanda? Sì, ecco. Diciamo che nei precedenti la stessa cosa si è avuta anche per i fondi per GPL Metano. Diciamo, i tempi medi di erogazione del fondo sono stati sui 70-80 giorni. Diciamo, nel caso dei pannelli fotovoltaici, vista diciamo, la scarsa liquidità che si aveva, questi 70-80 giorni si sono tramutati in 80 giorni. Quindi lei può rassicurare il cittadino? No, io sono sicuro che su disposizione del capo settore risorse finanziarie, dal 15 di ottobre sono stati liquidati i fondi relativi alle richieste relative a luglio. Quindi verranno sicuramente avvisati tutti coloro i quali hanno fatto domanda e sono entrati nella lista, quindi anche il signor Cardi. Benissimo, allora io la ringrazio per questa precisazione. Faccio una domanda flash a Cardi: lei finora ha ricevuto qualche comunicazione? No, nessuna. Nessuna comunicazione, bene, allora chiamo in causa un avvocato amministrativista tra i più attivi e esperti in Italia, Gaetano Viceconte, che è anche un esperto del Sole 24 Ore, avvocato fiorentino. Buongiorno Viceconte. Buongiorno. Allora, io direi intanto di commentare questo rapporto tra un cittadino imprenditore, in questo caso, e un'amministrazione comunale. Le chiedo, il rapporto è stato corretto oppure, come lamenta il nostro radioascoltatore, forse una chiarezza maggiore nei bandi, non solo in questo, in tutti, ci vorrebbe? Intanto, come lei ha ben detto, esiste un rapporto fra il cittadino e l'amministrazione ed è un rapporto che la giurisprudenza ha valutato in casi consimili. Se l'amministrazione dovesse concludere questo procedimento nel senso della mancanza di disponibilità di fondi e non dovesse dare alcunché al cittadino, il cittadino qui avrebbe titolo per chiedere all'amministrazione un risarcimento dei danni, perché è stato instaurato fra l'amministrazione e il cittadino, in virtù dell'emanazione del bando, un rapporto qualificato che si chiama, così è definito dalla giurisprudenza, un rapporto da contatto sociale. Cioè, ecco, noi ovviamente ci auguriamo, e abbiamo sentito le parole del capo settore ambiente Mazzetto, che così non sarà e quindi ne siamo tutti felici, però probabilmente è proprio nel momento della predisposizione di questi bandi che dovrebbero essere rese molto chiare queste conseguenze che lei ci sta descrivendo, o sbaglio? Naturalmente, perché questo, la mancanza di determinazione nei bandi dei termini di durata del procedimento porta poi a configurare proprio quella responsabilità da contatto sociale qualificata a cui facevo riferimento, cioè è proprio la mancanza di chiarezza e di trasparenza in questo senso potrebbe configurare in capo al cittadino un diritto ad un risarcimento del danno. Naturalmente, se invece, come ci auguriamo, l'amministrazione ottempererà agli obblighi e quindi erogherà quel contributo, ci sarà un danno limitato per il cittadino, perché è semplicemente un danno da attesa, da ritardo, e magari anche da telefonate continue, magari certo, perdite di tempo per cercare di saperne qualcosa di ecco, più. Se posso aggiungere un ultima cosa, tutto questo non dovrebbe più avvenire perché ogni procedimento amministrativo deve avere la predeterminazione dei tempi di durata. In mancanza di una predeterminazione amministrativa vale il principio generale posto dalla legge 241 del 90, che è quella che regola i rapporti tra cittadini e amministrazione, vale a dire 90 giorni. Esatto. Trascorsi 90 giorni il cittadino già potrebbe mettere in mora e l'amministrazione e pretendere un risarcimento per il ritardo che si dovesse verificare. Benissimo, io ringrazio l'avvocato Viceconte per la sua chiarezza estrema, ha portato veramente, come dire, una riflessione oggettiva alla nostra chiacchierata. Grazie al Comune di Padova e al dottor Mazzetto, capo del settore ambiente, al nostro radioascoltatore, in regia a Fabio Cantadori, in studio a Laura Faggini, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, http://robertogalullo.blog.elsole24ore.com. Vi aspetto se volete scrivermi o se volete leggere quello che io scrivo in questo blog. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.